America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Quest'oggi trasmettiamo da Washington. Siamo venuti nella capitale per seguire alcuni eventi importanti. Mario Platero vi saluta. Cominciamo dal primo, Barack Obama, che parla di sanità. Con John McCain, un piccolo litigio da campagna elettorale. A proposal that you supported in the United States Senate. John, at Christmas Day, that geography does not dictate what kind of healthcare they would receive. Come avete sentito, parlando di riforma sanitaria, alla fine non c'è stato bipartitismo. I due principali esponenti hanno così litigato, c'è stato un po' di bickering, come ci si aspettava da questo incontro. Ciascuno ha mantenuto le sue posizioni, democratici da una parte, repubblicani dall'altra. È stato un po' un gioco delle parti e dunque preferisco archiviare l'argomento. Sapevamo che non sarebbe stato conclusivo, vedremo nei prossimi giorni che sviluppi ci saranno. E passiamo invece a quello che secondo me è stato il vero argomento della giornata di ieri a Washington, un argomento che ha dominato la stampa e i mercati internazionali. Ben Bernanke, durante audizioni in Congresso questa volta, ha attaccato Goldman Sachs e il mercato dei credit derivative swap. Sentiamo che cosa dice. I'm going to ask you here whether or not you think there ought to be limits on the use of credit default swaps to prevent the intentional creation of runs against governments. Do you have any quick comments on that? Yes, Senator. I just want to say, first of all, that we are looking into a number of questions related to Goldman Sachs and other companies and their derivatives arrangements with Greece, and on this issue as well. As you know, credit default swaps are properly used as hedging instruments. È stato questo il cuore dell'audizione di ieri, ha fatto notizia, nessuno se lo aspettava, pensavamo che si sarebbe parlato di nuovo di tassi di interessi come è successo il giorno prima, con la solita conferma che per un bel pezzo resteranno su livelli molto bassi. Invece il presidente della commissione Chris Dodd ha subito attaccato, chiedendo a Bernanke se non ci sia il rischio che i credit default swap siano utilizzati per attaccare direttamente dei paesi e dunque la Grecia, se non ci sia un disegno da parte delle istituzioni finanziarie. Ebbene, Bernanke invece di dare la solita risposta di prammatica e ha giocato al rialzo. Stiamo conducendo delle indagini su Goldman Sachs, ha detto il governatore della Fed, e sui suoi rapporti con la Grecia in materia di prodotti derivati. E brutto, ha detto, e controproducente se davvero dovesse emergere che alcune delle grandi istituzioni internazionali usano questi strumenti per destabilizzare i mercati. Una dichiarazione molto forte questa di Bernanke. Per la prima volta ha menzionato Goldman Sachs, ricordiamolo, Goldman Sachs impacchettò il debito della Grecia, riuscì a trovare dei quattrini per Atene e poi in qualche modo mascherò questo debito per non farlo emergere nel momento della contabilizzazione per poter avere un ingresso in Europa con un rapporto debito PIL adeguato. Ecco, poi quando i nodi sono venuti al pettine, Goldman, come altre istituzioni, ha speculato contro la Grecia. Questo, ha detto Bernanke, non va bene. Si apre dunque, secondo me, un nuovo capitolo nei rapporti tra istituzioni e grandi banche internazionali. Ma passiamo adesso alla vera notizia del giorno che abbiamo raccolto qui a Washington, nella capitale americana. How you doing? Very well. It's really great to talk to you. We're really excited about the Giro d'Italia. Giro d'Italia. I've seen that you had the pink shirt, la maglia rosa. Oh, you know, it's a great honor to be able to have even a symbolic version of the shirt. And we're just so excited to have the opportunity to bring this magnificent race to Washington D.C. Ecco la voce del sindaco di Washington, Adrian Fenty, è lui che dà ad America 24 e a voi, cari ascoltatori, la notizia. Il Giro d'Italia del 2012 partirà da Washington, dalla capitale americana, la prima tappa di un giro veramente molto originale. Sono molto orgoglioso che questo Giro d'Italia, dice Fenty, possa partire da Washington. Per noi è un grande onore. Abbiamo visto il sindaco ieri pomeriggio in ambasciata, dove si è incontrato con il nostro ambasciatore Giulio Terzi. Insieme hanno lanciato questa iniziativa. Qualche giorno prima il sindaco era stato fotografato davanti al Campidoglio con una simbolica maglia rosa. I understand that it's going to start from Pennsylvania Avenue and then it's going to go all around town. Is that the idea? And to have a couple of tools around town? Well, that's the plan. That's the hope. You know, we're still ironing out some of the details. It's exactly what we're working on and everybody is really excited about the potential of it all. Si partirà da Pennsylvania Avenue, ci conferma il sindaco. C'è già il tracciato, mancano ovviamente alcuni dettagli, ma l'inizio, l'avvio sarà davanti agli archivi nazionali, poi giù verso la Casa Bianca, davanti al grande monumento Rocky Park, il Watergate, Virginia Avenue e infine una tappa simbolica davanti al Memorial Bridge che si apre sul Lincoln Center. Perché il Memorial Bridge? Perché ci sono due enormi statue di bronzo che segnano l'ingresso al ponte, valore e sacrificio di Leo Frelander, che sono state commissionate dall'Italia nel 1925 e donate all'America dal popolo italiano nel 1951. Il sindaco Fenty dice che girerà anche lui con i ciclisti per dare un appoggio morale a questa corsa. E dopo questa prima tappa, i ciclisti di nuovo in massa torneranno in Italia per continuare il giro, una organizzazione logistica non da poco. Ma veniamo a una curiosità che lega l'Italia a questo sindaco afroamericano, giovanissimo, appena 40 anni. Both my grandparents were born in Italy and the race will actually go through their hometown of Frosinone. My grandmother's original name was Bianchi, Phyllis Bianchi. Any relation? It's about exactly the same. Isn't that a great coincidence? Questo giovanissimo sindaco, vi dicevo, di origine afroamericana, di padre afro-panamense, per essere precisi, ma di madre italo-americana. I nonni, ci dice, venivano da Frosinone, la nonna materna si chiamava Bianchi, come la bicicletta non poteva essere, ci dice Fenty, un migliore auspicio. Ci dà un'altra anticipazione, una delle tappe del Giro d'Italia 2012 sarà proprio a Frosinone in onore dei suoi nonni. E gli chiediamo se ha mai visto il film La Ciociara con Sophia Loren. Dice di no, ma che lo farà quanto prima possibile, ma sentiamolo dalle sue stesse parole quando ci saluta. I haven't seen La Ciociaria yet, but I want to see it soon. As soon as I get a free moment, I'm going to see that movie. Un'altra notizia, questa invece viene da New York. Il governatore David Paterson in gravi difficoltà. Si sapeva che forse non si sarebbe ripresentato, ma dicono le informazioni, le indiscrezioni, che forse ha già deciso di chiudere la sua corsa per la rielezione. C'è stato uno scandalo, un suo aiuto, ex autista diventato principale consigliere, aveva picchiato la sua convivente. Lo stesso governatore aveva cercato di coprire in qualche modo il crimine e scandalo a New York. A questo punto il prossimo candidato e forse il prossimo governatore sarà Andrew Cuomo, figlio di Mario Cuomo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Qualche giorno fa vi avevo anticipato che la Apple avrebbe premiato con una gift card a $10,000 la 10 miliardesima canzone scaricata da iTunes. Ebbene, è successo proprio nel giorno del compleanno di Steve Jobs, fondatore di Apple. La 10 miliardesima canzone è stata Guess Things Happen That Way di Johnny Cash, 1959, scaricata da Louis Sulzer di Woodstock, Georgia. Eccola. Will you ask me if I'll forget my baby? I guess I will someday. I don't like it, but I guess things happen that way. You asked me if I'll get along. I guess I will, some way. I don't like it, but I guess things happen that way. God gave me that girl to lean on. Then he put me on my own. Heaven help. I don't know. like it, but I guess things happen that way. Bene, questa volta da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.